I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Immagini e inganni. A forza di porte in faccia e di esperienze negative ti rendi conto che il tuo non è che una piccolissima parte, giustamente, di tutto un iter giudiziario che è molto più complesso e molto diverso da come te lo immagini all'inizio, con tante frustrazioni. Le soddisfazioni sono quando vedi che quello che hai fatto viene messo all'interno di questo puzzle che il giudice sta costruendo, funziona bene, serve a qualcosa. Conan Doyle scriveva: «È un errore capitale costruire delle teorie prima di avere i dati. Uno inizia così a mettere assieme senza senso i fatti affinché calzino le teorie, invece di fare il contrario». Questa è una frase che ogni medico legale dovrebbe tenere sempre ben stampata in mente quando fa un'autopsia, quando visita un presunto torturato e soprattutto nei casi in cui l'oggetto del suo studio non è in carne ed ossa di fronte a lui, ma solo rappresentato in una fotografia. Capita infatti che si debba lavorare soltanto su immagini video o fotografiche o prese dai file sequestrati da un computer. A volte ci si trova persino a dover identificare, ad esempio, un soggetto ripreso da un sistema di videosorveglianza. Un corpo può venire avvolto in qualcosa. Hai chiamato i tecnici dell'FBI? Stanno arrivando. Capita spesso che ci troviamo di fronte al compito di identificare una persona soltanto dalla sua faccia, dalla sua statura, visibile da una fotografia, da un'immagine. Possono essere casi di rapine in banca, di rapine in gioiellerie, insomma tutti i casi che possono essere ripresi da un sistema di videosorveglianza dove c'è una telecamera. La cosa più interessante da un punto di vista umano di questo tipo di perizia, di questo tipo di attività medico-legale, è che vedi proprio l'azione delittuosa. Quando facciamo le autopsie, quando studiamo le vittime le vittime viventi di abusi, di maltrattamenti, non vedi che cosa è successo. Qui invece hai di fronte un filmato intero che ti mostra tutta l'azione delittuosa. Un caso particolarmente tragico sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista umano fu quello di una rapina in una gioielleria, dove entrarono tre rapinatori con dei Kalashnikov, fecero la rapina e uccisero uno dei gioiellieri. Il caso era tragico da un punto di vista umano, in quanto ci portarono le videocassette sulle quali era ripreso tutto l'evento. Erano molto impressionanti queste immagini di questi tre soggetti camuffati con delle maschere in faccia nere che entravano con questi Kalashnikov, venivano esplosi dei colpi e si vedevano questi nastri di fumo uscire dalle bocche delle armi. C'era moltissima concitazione e vedevi gli autori, vedevi i rapinatori, non vedevi le vittime, ma potevi capire che c'era qualcuno che era stato colpito e che stava morendo. Arrivati al processo si dava per scontato che erano stati identificati questi tre soggetti ed era quasi vicino a una conclusione, quando uno dei consulenti aveva detto che non potevano essere questi tre soggetti ad aver effettuato questa rapina e questo omicidio, perché uno di questi soggetti era un centimetro più basso di quanto non lo fosse l'indagato, uno dei sospettati. Quindi tutto il processo e la condanna stava per cadere a causa di un centimetro. Riuscimmo a far comprendere al giudice che la metodica che era stata applicata per identificare l'altezza di quel soggetto all'interno di quell'ambiente era una metodica che aveva un errore di più o meno 2-3 centimetri addirittura, e quindi l'indagato stava perfettamente all'interno di questo range di altezza e ci fu una condanna. Molti scienziati forensi hanno speso decenni nel cercare rapporti tra le forme e le dimensioni del volto al fine di poter riuscire a dare un'identità a una persona di cui si possiede magari solamente un fotogramma, ma senza riuscire ad arrivare ad una conclusione o a mettere a punto un metodo che possa fornire una prova certa in tribunale. Il punto di difficoltà è proprio quello di riuscire il più possibile ad avvicinarsi alla facoltà, tipicamente umana, di riconoscere i tratti di una persona e quindi di poterla identificare con certezza. Corpi. quando devi identificare una persona da un sistema di videosorveglianza puoi partire da molto lontano, addirittura alcuni dicono che è molto bene guardare l'andatura, cioè il passo della persona, calcolare la statura, ma in genere si arriva veramente alla faccia, e sulla faccia si è detto di tutto e di più. Una volta venivano chiamate perizie antropometriche, queste proprio perché si andava a misurare la distanza tra le labbra, il naso, la lunghezza, la larghezza della faccia, ed è stato dimostrato che queste tecniche non valgono assolutamente nulla, anzi sono fuorvianti. Le ultime tecnologie ci permettono di lavorare addirittura in tre dimensioni con dei laser scanner. Ci dicono che forse il modo più efficace di confrontare le forme dei volti è quello di appunto fare una scansione tridimensionale del volto del sospettato e confrontarlo in maniera più agevole in questo modo con l'immagine bidimensionale che abbiamo dal fotogramma. Per fare queste cose di nuovo non è sufficiente il medico legale, non è sufficiente l'antropologo, poiché ci sono dei problemi proprio di calcoli, è fondamentale la figura di un ingegnere. Remo Sala, ingegnere, ricercatore del Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica. I sistemi di videosorveglianza sono costituiti da telecamere che, in modo del tutto simile alle macchine fotografiche o ai sistemi di videoripresa, restituiscono un'immagine bidimensionale della scena. Questo introduce il grosso limite che un oggetto piccolo e vicino può avere le stesse dimensioni apparenti di un oggetto più grande e lontano. Per superare in parte questo problema è possibile elaborare le immagini e l'ambiente. In pratica ci si lega sul luogo, si effettuano delle misure dell'ambiente e tramite queste misure si fa la cosiddetta calibrazione della telecamera, cioè si risale alla sua posizione corretta, alle caratteristiche della sua ottica, del suo sensore, diciamo a tutti i parametri geometrici che permettono di descriverla. Fatta questa operazione si estende nel mondo tridimensionale l'equazione del pavimento e sopra questo si va a posizionare il soggetto. In questo modo si possono fare due cose: immediatamente si può rilevare nel modo più corretto possibile la sua statura. Per quanto riguarda il volto, il discorso è più complesso, nel senso che bisogna passare attraverso la scansione del volto di una persona di cui si vuole capire se compare o meno nelle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Una volta che si ha a disposizione questo modello tridimensionale del volto, con opportuni programmi di grafica è possibile riprendere questo modello del volto con una telecamera con caratteristiche variabili. Ovviamente si farà in modo che la telecamera virtuale che risponde al soggetto abbia le stesse caratteristiche geometriche della telecamera del sistema di videosorveglianza. A questo punto, andando a posizionare il modello tridimensionale dell'indagato sul volto della persona che compare nell'immagine ripresa dal sistema di videosorveglianza, si potranno avere, nel caso ideale, due situazioni: o la sovrapposizione è perfetta oppure ci saranno delle discrepanze. Queste discrepanze, una volta che il posizionamento è stato effettuato in modo corretto, una volta che la telecamera è stata calibrata, non possono che essere dovute a differenze geometriche tra i volti delle due persone, che permette poi agli antropologi di arrivare all'identificazione oppure all'esclusione dei soggetti. Può capitare che invece di essere noi a studiare delle immagini, siamo noi a dover fornire delle immagini, dei video di delitti. Questo succede quando viene richiesto, in un caso particolarmente delicato, la ricostruzione dinamica, così vengono chiamate, di una caduta, di una colluttazione o di una sparatoria. Anche qui c'è molta fonte di errore, perché che cosa viene fatto? In genere si studiano le ferite, si studiano gli ambienti e in base ad un approccio molto scientifico, sempre con il dovuto errore, si mette insieme una versione più probabile dei fatti e a richiesta viene animata, e quindi ci troviamo un po' come si vede in televisione, soltanto che in televisione addirittura fanno degli ologrammi precisi al millimetro. In realtà vengono fatte delle ricostruzioni sommarie che rappresentano la più probabile ipotesi di come sono andate le cose. È chiaro che qui bisogna partire da sani principi e sani dati scientifici reali con il loro errore, e anche qui è impossibile fare queste operazioni che trattano spesso di traiettorie, di proiettili, cadute di corpi gravi, è impossibile fare tutte queste operazioni senza chi è esperto e maestro di fisica e di bioingegneria. Diciamo che le leggi della cinematica e della dinamica permettono di seguire il movimento di oggetti nel tempo. Diciamo che l'applicazione forse più estrema di questo concetto è quella delle previsioni atmosferiche, dove partendo da dati derivati da stazioni meteorologiche si interpolano questi dati e si proiettano nel tempo e si fanno delle previsioni anche a giorni di distanza. La stessa cosa può essere fatta in accadimenti che interessano le scienze forensi. Il tipico caso è quello di seguire la caduta di un corpo che può essere simulata, possono essere provati differenti casi e nel mondo della simulazione questo può essere fatto in modo tranquillo analizzando tantissime diverse possibilità. Queste tecniche funzionano sia in simulazione pura, quindi diciamo si parte da una condizione iniziale, si pongono dei vincoli e si studia il movimento dell'oggetto, che può essere un corpo ma può essere anche qualsiasi altra cosa. Da un altro lato bisogna anche sottolineare che queste tecniche non permettono di fornire molte informazioni nella maggior parte dei casi quando non si è a conoscenza ad esempio delle condizioni di partenza, da dove la persona è caduta, almeno un'indicazione di come è caduta e così via. Quindi spesso queste tecniche devono essere aiutate da tecniche sperimentali e qui entra in gioco diciamo la possibilità di eseguire delle misure. Eseguire delle misure vuol dire avere un'idea di come è accaduto il fenomeno, riprodurlo e eseguire delle misure reali. Questo permette di andare a determinare delle forze, delle accelerazioni, delle pressioni, diciamo le quantità che si ritengono significative per lo studio del caso in esame. Per esempio andando a distribuire degli accelerometri su un oggetto che poi viene fatto cadere in simulazione ma nel mondo fisico reale, si può andare a vedere le sollecitazioni che il soggetto ha dovuto subire ad esempio durante la caduta. In particolare si possono fare anche delle prove di cammino, velocità di spostamento e così via usando delle telecamere e degli opportuni marcatori. Queste ricostruzioni dinamiche, questi filmati, possono essere, sono molto chiari, ma possono essere molto pericolosi. E spesso succede che quando il giurato, anche il giudice o il magistrato, ha di fronte un video, si tende a dimenticare l'errore che c'è dietro ogni mossa. La fallacità di questo metodo, che deve essere soltanto un metodo illustrativo, non deve essere inteso come una prova, la vedemmo proprio in un caso che avevamo fatto per la Svizzera, in cui c'era da ricostruire le dinamiche di una sparatoria. Un soggetto uscendo di casa aveva sparato liberamente e poi durante una colluttazione su alcune persone che stavano di fronte a casa sua. E diciamo che noi abbiamo ricostruito tutte le traiettorie, le cadute di proiettili, le cadute delle persone, bene o male riuscendo a capire da dove erano partiti i proiettili e dove avevano finito il loro percorso, e bene o male ricostruendo in maniera abbastanza sommaria, non con la precisione al centesimo, le diverse posizioni delle persone, delle vittime e dello sparatore. Tuttavia i limiti di questa cosa e l'inganno nel quale può indurre questa ricostruzione si vide quando ci fecero delle domande, avevano delle aspettative che sicuramente noi non potevamo, alle quali noi non potevamo venire incontro. Dopo aver presentato ai giudici e alla corte tutte queste ricostruzioni, pretendevano che prevedessimo anche l'inclinazione del polso. Infatti dall'inclinazione del polso dell'omicida dipendeva il giudizio sull'intenzionalità o meno dell'atto. Ed è chiaro che noi possiamo dire da dove parte, dove arriva un proiettile, con tutti i calcoli fisici dovuti, ma era impossibile prevedere l'orientamento di quel polso, cosa che comunque avrebbe fatto la differenza tra un'azione accidentale e un'azione intenzionale. Corpi. Con la diffusione della rete internet, lo scambio di immagini che rappresentano bambini e adolescenti in atteggiamenti pornografici è aumentato. Anche l'attività criminosa del pedofilo è facilitata, tenendo pure conto che in teoria chiunque oggi ha a disposizione una fotocamera digitale semplicemente incorporata nel suo telefonino. Per questa ragione il medico legale spesso si vede recapitare sul tavolo da polizia postale e carabinieri nient'altro che centinaia di immagini alle quali bisogna dare un'età. Sono per lo più scatti che rappresentano soggetti nudi, spesso molto giovani, alcuni apparentemente sfrontati, altri timidi e imbarazzati. Lui, 45enne, aveva tenuto prigioniera la figlia per 6 anni, facendole partorire 2 figli. Un anno di indagini e un'accusa pesante, molestie sessuali. Da quando avevo 7 anni fino ai 10, 11 anni, aveva delle carezze del... Un tredicenne da almeno 2 anni veniva violentato da un agricoltore di 55 anni. Ad accompagnare 115 persone, tutti i presunti pedofili sono stati arrestati in 18 paesi europei, in Canada, in Sospetti. Da anni ci arrivano pacchi di CD, di immagini stampate, di chiavette con su immagini che si presume siano di natura pedopornografica. A volte, ovviamente anche all'interno della difficoltà di capire se si tratta di soggetti maggiorenni o minorenni, si capisce, si intuisce che potrebbero essere maggiorenni, ma a volte si vede che si tratta di soggetti molto giovani, di soggetti anche imbarazzati, e il problema tecnico è ancora più insidioso rispetto a quello dell'identificazione degli adulti. Mi ricordo il primo caso che affrontai di questo genere fu un caso di Siracusa. Dovetti andare a Siracusa proprio per visitare una bambina. Dal momento che dovevo capire se su delle immagini di natura pedopornografica era proprio lei quella ritratta, aveva soltanto 6 o 7 anni. Mi resi conto subito della difficoltà tecnica di questo tipo di lavoro e per fortuna in quel caso lei aveva dei nei sul dorso che si vedevano benissimo nelle immagini fotografiche, che quindi si riuscì a concludere in maniera positiva e arrivare a un giudizio di condanna, ma era chiarissima la difficoltà tecnica di capire quanti anni hanno questi soggetti soltanto da delle fotografie. Corpi. Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter. Il fenomeno della pedofilia è certamente uno dei fenomeni più complessi e più trasversali, che include ovviamente anche l'abuso sessuale su minori, soprattutto minori al di sotto dei 12 anni, perché il pedofilo preferisce bambini al di sotto dei 12 anni. Se dobbiamo verificare attraverso i numeri la vastità del fenomeno, certamente i numeri la dicono lunga, perché a livello mondiale l'ONU, assieme anche alle agenzie che si occupano di violenza d'infanzia, come anche la nostra associazione Meter, ha dichiarato nell'ultimo rapporto del 2006 che ci sono 178 milioni di minori coinvolti nelle violenze sessuali, di cui più di 2 milioni di bambini coinvolti nella produzione del materiale pedopornografico, a prescindere poi dal traffico di esseri umani che include anche i bambini. Questo fenomeno in Italia ha anche un'incidenza non indifferente. Se ci basiamo negli ultimi rapporti che sono stati prodotti, circa 21.000 casi l'anno. Un altro fenomeno sconvolgente è l'infantofilia, cioè dire l'abuso sessuale a bambini con i pannoloni, nel senso che sono bambini piccoli, perché si parla che alcuni infantofili preferiscono bambini da 0 massimo a 3 anni, 4 anni. Ecco, questo comporta certamente anche un fenomeno di vasta proporzione, verificabile concretamente con il materiale che spesso viene segnalato da Meter alla Polizia Postale delle Comunicazioni, ma anche all'Interpol e anche alle varie polizie europee, soprattutto i video, le foto che coinvolgono veramente milioni di persone, milioni di bambini. Il problema subentra la individuazione delle vittime, cioè la domanda è: ma questo materiale fotografico coinvolgente i bambini, è possibile individuare i bambini in tal senso? C'è un database che è all'Interpol, a Lione, dove c'è un flusso di materiale pedopornografico sequestrato da parte della Polizia Postale Italiana e non solo, che ha raccolto circa 600.000 volti di bambini. Ogni anno sono circa 10.000 i siti pedopornografici coinvolgenti all'incirca sui 30.000 bambini l'anno. Per quanto riguarda i tratti somatici che noi riscontriamo durante la segnalazione alla Polizia Postale, il sequestro del materiale, ormai è un fenomeno eccessivamente trasversale. I buchi che vengono sequestrati, noi ritroviamo bambini europei, ora in maggiore evidenza, soprattutto nei paesi, diciamo, dell'est europeo, che si stanno molto sviluppando e il materiale è molto più frequente nella produzione, a differenza di un tempo che erano più bambini asiatici. Immaginate che esiste anche una categoria di preferenza di bambini africani. Cioè, dovrebbe qui da stabilire se sono fatti le violenze in Africa o se sono bambini con carnagione scura che vengono fatti in vari paesi, anche occidentali. l'età media che noi possiamo riscontrare nella analisi delle immagini, dei video dei bambini, mediamente si va dai 4 agli 11 anni. Per quanto riguarda il turismo sessuale, certamente negli ultimi 15 anni ha avuto uno sviluppo notevole, diverso. Se prima i paesi o i paradisi erano la Thailandia, come anche l'America Latina, automaticamente oggi sappiamo benissimo, e ci sono riscontri anche investigativi, che moltissimi europei vanno nell'est europeo, oppure moltissimi dell'est europeo vengono anche in Italia, come posso dire in Italia, perché c'è la prostituzione minorile che è molto frequente in Italia e lo vediamo sulle nostre strade, ecco, di bambine, perché sono comunque bambine anche quindicenni, sedicenni. L'Africa sta diventando anche una nazione dove il turismo sessuale in Africa è molto vivo e molto presente. La maturità sessuale di una persona è una condizione molto difficile da valutare. Una ragazza o un ragazzo di 17 anni sono meno maturi rispetto a chi ne ha 19 nella gestione della propria sfera sessuale. Ma una soglia ci deve essere, soprattutto per la legge. Per la legge italiana, una persona ripresa in atteggiamenti pornografici diventa vittima di pedopornografia se ha meno di 18 anni. È proprio qui che inizia il dilemma medico-legale. Come si fa a capire l'età di un adolescente unicamente da una foto? Come si fa a definire con certezza se quel soggetto è maggiorenne o minorenne? Una volta che un soggetto ha raggiunto la pubertà, è molto difficile capire dalle immagini, dalle fotografie, se è sopra o sotto i 18 anni. Se sono bambini si capisce molto bene, è chiaro, e non c'è bisogno di un perito per definirla la questione. La clinica, la pediatria ci offrono degli strumenti che valutano per esempio la maturazione dei caratteri sessuali, ma questi metodi sono fatti per seguire lo sviluppo delle persone, dei giovani, degli adolescenti, non sono fatti per capire quella che era l'età anagrafica e quindi non sono applicabili su materiale fotografico. Ci sono molte variazioni e diversità tra diversi individui, tra diverse etnie, e quindi questo fa sì che sia praticamente impossibile dare una certezza sull'età di un soggetto dopo la pubertà. Corpi. Un tredicenne da almeno 2 anni veniva violentato da un agricoltore di 55 anni. Presunti pedofili sono stati arrestati in 18 paesi europei. Rapporti sessuali costretti in uno stato di prigionia. Un caso esemplificativo di questa problematica fu uno dei primi casi in cui ci fu una condanna per detenzione di materiale pedopornografico, detenzione e produzione di materiale pedopornografico all'interno anche del turismo sessuale. E si trattava di un soggetto che aveva in casa delle immagini di presunte minorenni di origine thailandese, di origine orientale, e la domanda classica del giudice era quella di capire se appunto erano minorenni o no. La cosa era partita in maniera negativa proprio perché poiché non ci sono regole, non ci sono dati scientifici alla mano che possono dare delle certezze, ognuno si esprime un pochettino, a volte purtroppo a spanne, con criteri molto soggettivi. E qualcuno aveva detto che poiché i seni erano piccoli, poiché le ragazze avevano le guanciotte, erano sicuramente minorenni. È chiaro che la difesa aveva subito attaccato questo giudizio, giustamente, dicendo che questi non erano criteri validi per stabilire con tanta determinazione la minore età. E quindi fummo chiamati per dare un po' un supporto tecnico a quelle che erano le fasi finali del processo. Vedendo queste immagini era palese l'idea che questa persona venisse condannata, perché era veramente disgustoso il modo in cui questo soggetto trattava queste giovani donne, queste ragazze che erano forzate ad assumere atteggiamenti pornografici. Come si faceva a dimostrare, a capire se erano giovani o se erano maggiorenni? Non c'era nessun elemento, perché erano puberali, e capimmo subito che anche da un punto di vista scientifico non si poteva rispondere rispondere con nessuna certezza, perché in quel momento stavamo facendo un progetto molto semplice, molto banale. Avevamo preso 10 immagini di pornostar di età nota e sicuramente maggiorenni che si atteggiavano in atteggiamenti pornografici da ragazzine, quindi erano pornostar scelte con caratteri molto giovanili, con caratteri sessuali poco sviluppati, che avevano le code di cavallo, insomma vestite molto da giovani, e avevamo sottoposto queste immagini a diverse categorie di specialisti, facendo finta che fossero delle vere e proprie perizie in cui dovessero dire se la persona era maggiorenne e o minorenne con criterio scientifico. Abbiamo sottoposto a più esperti in questo ambito, quindi a un gruppo di pediatri, un gruppo di ginecologi e un gruppo di medici legali, e infine anche all'uomo di strada. Chi ebbe gli score migliori sono stati i medici legali, probabilmente perché più cinici e più sospettosi, e gli uomini di strada, ma i professionisti che hanno cercato di agire con criteri scientifici hanno tutti sbagliato. Questi dati vennero pubblicati e di fronte anche a queste evidenze scientifiche non fu possibile ovviamente concludere con nessun giudizio, si dovette concludere che sembravano giovani, i caratteri erano suggestivi, ma attenzione alla suggestione, non esistevano criteri scientifici sui quali dire che erano sicuramente minorenni. Per fortuna il giudice era una donna estremamente intelligente, molto pratica, aveva altri elementi, poi sapendo di non potersi basare su questi aveva anche altri elementi per poter concludere per la minore età di queste giovani e per condannare il soggetto. La stesura della consulenza tecnica o della perizia, insomma dell'elaborato finale da consegnare al magistrato o al giudice, rappresenta per il medico legale forse il momento più difficile. Tutto lo studio effettuato prima, dall'autopsia o dalle indagini di laboratorio, ha uno spirito diverso, propositivo, di indagine, ed è fatto con entusiasmo. Nel tirare le somme, invece, bisogna mettere da parte emozioni e convinzioni intime, tranne quelle supportabili da dati scientifici. Un omicidio, un maltrattamento, devono essere esposti con freddi tecnicismi, sbilanciandosi con prove soltanto se la scienza e il buon senso lo permettono. C'è un momento in cui a volte bisogna ammettere: non ho elementi per rispondere. E quando si perde il coraggio di questo atto di onestà professionale, è meglio cambiare mestiere. Fox Crime, canale 114 di Sky, vi ha presentato Corpi. Corpi è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia di Paolo Corleoni, a cura di Guido Scotti.